E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. Un nuovo partito che si ispira a Berlusconi, alla sua personalità e che sarà fatta dalla sua Berlusconi Generation, che è quella che è cresciuta secondo alcune lezioni, che sono lezioni innanzitutto di vita e non di partito. La Zanzara. Vogliamo vivere. La dignità è un diritto. E beh, lo dico anch'io, Ma tu hai capito il concetto, la dignità è un diritto? Beh, c'è questa idea molto bella che la dignità, cioè il vivere in modo dignitoso, deve essere un diritto sancito dalla Costituzione, un po' come negli Stati Uniti c'è il diritto alla felicità, no, nella carta. Ma stai parlando seriamente o no? Fede, come i grandi legislatori americani, Emilio Fede ritiene di dover inserire in Costituzione il diritto alla dignità, molto bello. E infatti si è sentito ieri sera, Sì. Riascoltiamo tutto. Sì, tutto. Quanto sei contento anche tu oggi? Ha la voce moscia però. Quanto sei contento? Perché mi hanno detto l'anticipo sono dell'Espresso, soldi, cose. Sapete che vi dico con molta cortesia che mi sono rotto i coglioni. Oh. Ma proprio rotto il cazzo, va bene, deve essere lasciato in pace. Sì. Bravo, poi sì. Escono fuori che Berlusconi mi ha dato dei soldi, ma magari io sto lottando per ottenere dall'INPG il mio fondo pensioni che non me lo vogliono dare, ci vogliono 7 anni. E adesso sapete che vi dico, valigetta, minchiata, eccetera, mi sono rotto i coglioni. Io ancora oggi ho scritto al presidente dell'INPG che il fondo pensioni, i miei soldi, va bene, li posso avere fra 7 anni, e andate a fanculo tutti, questa è la verità. Oh, Emilio, scusa, ma che... No, vi avete rotto i coglioni, voi compreso. Ma noi no. Ma voi ha retto i coglioni. Ma chi ti ha scritto queste cose? L'Espresso? Mi dicono l'anticipazione dell'Espresso, ma vada a fanculo, l'Espresso è chi fa da capofila all'Espresso, che Berlusconi mi avrebbe dato 800.000 euro. Sì, ma così quale hanno... cazzo di 400.000 euro? Io ancora oggi ho scritto al presidente dell'INPG di liquidarmi il mio fondo pensioni. Quanti soldi deve avere dall'INPG? Ma quelli che sono solo, porca la puttana, andata a fanculo. No, Emilio, scusa, ma perché si è arrabbiato con loro? Rotto i coglioni, siete delle merde. Andate a cercare del mio privato. Ma noi abbiamo ma noi che c'entriamo? Ma che c'entriamo? Allora, con questo io ho fatto fare i conti di cosa prenderò a dicembre fra cazzo fiala 13esimo e stipendio 15.000 euro. Ho rubato! Ma che è successo? Ma scusa, ma andate a fanculo! Per decidere il futuro, quello che ci cambierà. Senti che noi. Dobbiamo commentare? No, era stavi ridendo, di la verità, stavi ridendo, su. No, sì, stavo ridendo perché, per forza, mi dispiace umanamente, ma era quasi indemoniato. Ancora. No, scusa. Ma noi, che c'entriamo noi? Tutti voi siete banda di figli di buona donna che avete organizzato il tutto per tentare di distruggermi anche fisicamente. Avete capito? Oggi dice che l'Espresso. Berlusconi mi ha dato 800.000 euro. Mandate a fare in culo! Ma querela lì, mandate a fare in culo! Ma noi... siete delle merde! Ma Emilio, ma perché siamo noi? Ma noi chi c'entriamo noi? Abbassato, che ha fatto? Sono cavoli vostri! A un certo punto è intervenuta Annarella. Sono cavoli vostri! 800 24 00 24, questo accadeva ieri sera, ora tarda, qui dove? Alla Zanzara. Ma dove accadeva? Dove? Ricordalo, dove accadeva? Alla Zanzara, dove che... Stava a San Dir. non è che queste cose possono capitare. Fiorello, a, Fiorello, Berlusconi ha fatto le Focus Economia. Ma adesso lascia perdere. No, no, voglio dire, io voglio dire. Io Vabbè, ma è normale che sia così. No, è una, tu quindi dico, precisiamo. È una divisione bene del lavoro, è una, no, divisione, dico, della, esatto, famosa, dico, divisione del lavoro di marxista memoria. Ecco, voglio dire anche questo, che nel caso, cari ascoltatori di Radio 24, un giorno voi mi dovete sentire ospite dal signor Barisoni, che è autorevole, capirete benissimo che è tutto finito. Cioè, perché la mia autorevolezza metterebbe in discussione il concetto. Certo. Quindi questa, Fiorello, è la zanzara, cioè, questa era alla zanzara. Fiorello, Fiorello, Fiorello. Berlusconi ha fatto le sue primarie, perché nessuno ha detto che ci sono state le primarie. Ci sono state le primarie. Lui ha riunito tutti i suoi, ha portato una boccia di vetro, ha detto, ha messo un bigliettino dentro, uno solo, e adesso vediamo chi sarà candidato. Sarai tu Giorgia Meloni? Sarai tu Angelina Alfano? Vediamo, prendiamo il bigliettino. To, mi candido io. Ha vinto lui. Sì, ma quanti soldi ha risparmiato? Che uomo. Non so le primarie, quelle si chiamano solitarie. Le famose. Anche gli italiani. Ha fatto risparmiare. Ne ha manco i 2 euro, ha fatto rispa. Grande Silvio! Meno male che Silvio c'è. Grazie Silvio. Vogliamo vivere noi. Genio assoluto. 800 24 00 24. Ah, ripeto il numero un'altra volta. Mi devo mozzare la lingua ogni tanto. È con noi l'unico inimitabile, il quale è stato scoperto. Ma perché viene scoperto con ritardo? È stato scoperto imitatore, tutti si sono stupiti, imita Tremonti, ha imitato Tremonti, ma è 20 anni che imita Tremonti, ma roba da matti, guarda che la gente è incredibile, ma in più sedi, anche in un teatro l'ha fatto e tutti si stupiscono, ha imitato Tremonti, il Corriere della Sera, Il Giorno, ha imitato Tremonti, ma è 20 anni che imita Tremonti, vabbè, risentiamo. Mavoni invece è un vero leader, mi piace tutto di Mavoni, anche cognome, perché mi ricorda una virilità da scorsa, e siccome la Lega dice sempre ce lo devo con questo cognome, chissà, possa ancora divertirmi un po'. Vogliamo vivere noi. Sindaco, buonasera. Buonasera, Cucciani, lei cerca sempre di mettermi in difficoltà, ma guardi che io sono il ministro dell'economia più bravo d'Europa e non ci riesce. Lo so, però smetta di prendermi in giro, e anche quel amministratore di condominio fallito che è Albertini, la smetta, perché gli mando la finanza, sono ancora una persona importante. Ma queste sono minacce, ministro Tremonti, scusi, anche ministro. Ho preso un pezzo della scrivania di Quintino Sella, che un po' mi dispiace non lo usare più, ma ho un pezzettino in casa, quasi sono ancora importante. Ha staccato un pezzo dalla scrivania. Adesso poi con Mavoni vedrà che due ministri della Repubblica insieme, io sono un po' più bravo di lui, ma comunque farete il botto, farete il botto. 3 volte leader al cubo. Stia attento, Cruciani, non mi faccia arrabbiare, non mi faccia arrabbiare. Gabriele Albertini, buonasera. Buonasera. Come andiamo? Mi sto un po' divertendo con voi, ma forse. Ma non si è rotto di Berlusconi pure lei? O no? Magari delle inimicizie, però. Vabbè, ma voi quello. Fate divertire qualcuno, però insomma. Scusi, ma non si è rotto anche lei di Berlusconi, come ha detto Crosetto? Ma basta con queste. No, io non uso questi. Non usa queste cose. Linguaggi, però confesso che trovo contraddittorio, profondamente contraddittorio, tanto da essermi incomprensibile. Sì. Il doppio Berlusconi, cioè il Berlusconi di Palazzo Grazioli, esatto, così veramente solare, il padre nobile che ha fondato un partito, lascia però un'eredità ancora vivibile, crea le condizioni per un avvicendamento finalmente democratico, il popolo della libertà diventa popolo e può esprimersi liberamente, per scegliere il suo e invece leader. Poi l'altro qual è? Addirittura incarica, auspica che Monti accetti di essere lui il prossimo coagulatore, diciamo, di tutto il Rassemblement moderato, e 2 giorni dopo fa il discorso del Gernetto dove fa saltare il tavolo. Ma veramente non ho capito a quale. Ha un problema psicologico, secondo c'è un problema psicologico. Io credo al primo e continuo a essere fedele. Però c'è un problema psicologico, diciamola tutta. Secondo, insomma, non lo riconosco. Non lo riconosco. Ma c'è un problema psicologico o no? Questo non No, io non lo so dire. Non lo sa dire lei. Qualcuno che ha più competenze. Ah, bisognerebbe una visitina, sarebbe il caso di farla, dice lei. Ma io ho una certa esperienza in psicanalisi, nel senso che ho avuto lunga esperienza in questo. E dunque una visitina per Berlusconi. Mi ha molto aiutato a comprendere cose di me, ecco, lo vedi, anche dunque, degli altri. Allora inviti Berlusconi ad andare, inviti Berlusconi. Non mi azzardo a psicanalizzare Zeus. No, però, no, quello a psicanalizzare Zeus, cioè Berlusconi no, però magari gli può dire, guarda, io conosco delle persone molto brave che possono aiutarti, o no? Non sì. credo che sia possibile nella circostanza in cui si trova, purtroppo cioè, un uomo così è perduto ormai, così di successo, così ricco, sì. così assolutamente... è giustamente convinto sì. di essere al di sopra Zeus, di Zeus. Tante realtà umane sì. arriva un momento in cui forse un po' di contatto con la realtà lo perde, ha perso il contatto con la realtà. Può essere, io non voglio, no, no, non certo, voglio per dire carità. Niente di più di questo, no, ma ogni volta lei è molto, però dice ogni tanto, mette un grande rispetto e certo. una sincera riconoscenza. Però mi dica la verità, la candidatura di Berlusconi è un errore? Non l'ho capita onestamente, non l'ho capita, anche perché è sembrata veramente una cosa, qualcosa di contraddittorio con il magnifico intervento lucido, sì. trasparente, ma dov'è questo intervento lungimirante che aveva fatto a Palazzo Grazioli, e poi tutto quello che era stato preparato prima, perché ma allora c'è veramente bisogno di uno specialista, no? c'è veramente bisogno di uno specialista, allora. Beh, adesso lei sta facendo un'operazione con me che sa che non le riesce, no? No! Non dico le cose che dite voi. No! Dico le cose lei l'ha che praticamente penso, detto. Di avere collegamento tra la bocca e il cervello. Però, allora ci fermiamo un attimo, Albertini, che c'è il traffico, anche perché la sentiamo malissimo. Mi diverto con voi, però non mi fate dire cose che non penso. No, cose che non pensa mai. Non mi sentite mai a dire le cose che penso. Esatto, infatti la stiamo portando a dire le cose che pensa. Se lei poi non le pensa, per carità, mica gliele attribuiamo. Non sia mai. Però, ma insomma, non ha già dato l'imperatore da questo punto di vista? Quello del Palazzo Grazioli e quello del Cerretto. E io sono solidale col primo. Ho capito, ma però sono... Non capisco il secondo. Ho capito, ma quale vincerà? Per adesso vince il secondo. Io spero che vinca il primo. Per lui, Berlusconi, per noi italiani, sì. non solo per noi, diciamo, sì. raggruppamento moderato. Sì. E per tutti coloro che credono sì. nella possibilità del nostro paese di... superare questo. Sì, non si sente nulla perché il telefono è disturbato, ma sono i telefoni fissi che funzionano peggio di quelli cellulari. Datemi un altro Fede che sbrocca, datemelo. Benvenuta nel mio spazio sotto il salice. No, Emilio, scusa, ma guarda che non ce l'abbiamo con te noi. No, ho capito, ma basta. Ma cazzo, adesso mi chiedi anche quanto devo prendere dopo 60 anni. Ma cosa cazzo? Ma noi no. Frega? Ma non c'entriamo. Io ho detto che alla fine di dicembre sì. quello che io prenderò con questo nuovo contratto, compreso la 13, sono 15.000 euro. E ho rubato, porca la puttana troia della miseria. Ma no, certo, ma che non hai rubato. Ma chi ci dai? Che il fondo pensione 7 anni devo aspettare. Ma nessuno dice che hai rubato. L'Espresso. Ma che so che l'Espresso esce con delle cazzate. Sì, dice. Qual era l'Espresso? Che farà l'ex sindaco di Milano Albertini nell'ipotesi in cui Maroni dovesse essere candidato appoggiato anche da PDL? Si parla di un ticket Maroni-Gelmini. Albertini? Sì, chiedo scusa. Ero in collegamento con chi? Due politici contemporaneamente su due cellulari diversi. Con l'imperatore? Devo salutarne uno. Scusami Pierluigi, ti chiamo tra poco. Ma Pierluigi? Con la zanzara in diretta. Ciao, a tra poco. Pronto? Ma chi era, Bersani? Eccomi. Ma no, Pierluigi Bersani non chiama me. Ho non capito. Sono a questo punto. Può succedere, è stato sindaco di Roma e di Milano. È troppo divertente. Pierluigi, adesso vogliamo sapere chi era Pierluigi. Si può dire? Ma non Bersani, no, non posso dirlo. Non si può dire, Pierluigi potrebbe però. Potrebbe essere contaminante. È Montezemoliano, è uno dell'area di centro. Scusi Albertini, se Maroni sarà il candidato del PDL, lei esce dal PDL? Guardi, Mavone mi piace tantissimo, mi piace la sua leadership, mi piace la sua tonicità. Ma io l'ho chiesto ad Albertini. Mi piace il suo cognome. Trovo che un uomo con due Mavoni così deve fare il presidente della Lombardia. Lo voterò. Ecco, limitiamoci a questo. Ho capito, ma insomma, quanto ci vuole perché le lasci il PDL? Noi la tampiniamo. Sì, radicale disaccordo, d'accordo, radicale disaccordo con l'accordo con la Lega. Con, sì, un'ipotesi, ma non perché mi sono antipatico. No, vabbè, ma questo l'abbiamo già spiegato, perché sono contro l'Europa, eccetera, eccetera. Sì, ma poi non solo, perché poi sono statalisti municipali, non vogliono liberalizzare, privatizzare le aziende possibili. Ma se cacciassero, che ne so, Borghezio, per esempio, sarebbe contento lei? Sarebbe una Lega no, migliore? Borghezio è un uomo coltissimo, ho fatto un viaggio... Cioè, meglio Borghezio di Maroni? Meglio Borghezio di Maroni? Non faccio confronti, sono realtà diverse. Borghezio è un uomo di una cultura impressionante. Ma lo so, come non lo so? Davvero colpito. Ho fatto un viaggio, devo dire, con la macchina un po' squilibrata, però è andato benissimo per tutto il resto. Da Strasburgo a Milano sono state 5 ore di conversazione brillante. Un uomo coltissimo, nonostante il linguaggio da energumeno che spesso diciamo espone e che per cui viene caratterizzato. Non è razzista, secondo lei? Ma no, è una visione, lui è un abile politico che chiaramente interpreta, utilizzando anche la sua sagacia di politico, quello che è il sentiment, come dicono. Però scusi un attimo, la candidatura di Berlusconi, è me lo dica sinceramente, è un po' mortificante per il paese o no? Ma la candidatura di Berlusconi è contraddittoria. Vabbè, quello l'abbiamo già detto. Il suo discorso, con la sua volontà di un avvicendamento. Si può dire che l'imperatore ha già dato, da questo punto di vista? Ma si può dire che ha fatto una scelta contraddittoria con quella che aveva fatto prima. E devo dire che mi dispiace che abbia avvilito la possibilità di... Ha umiliato Alfano. Avvicendarsi ha umiliato un po' Alfano, diciamo la verità. Ha un po' umiliato. Questo no. È solo Alfano che può dirlo, perché io non secondo lei, secondo lei, degli altri, secondo lei, proprio degli altri, nell'orgoglio degli altri, ci mancherebbe, ognuno ha il senso di se stesso che vuole avere. Ma lei Berlusconi premier lo voterebbe sì o no? Se si dovesse candidare, lo vota o no? Guardi, dipende dal suo programma. Se il suo programma è quello di fare l'alleanza con la Lega, che è un partito, ripeto, anti-europeo, statalista municipale, demagogico. Però in generale, un Berlusconi che si candida, lei lo rivoterebbe, sì o no? No. Dipende dal programma che espone, però confesso che io sono più favorevole a una posizione diversa da quella che è stata assunta. Adesso lei si sente più garantito da Monti o da Berlusconi, oggi? Il nostro paese è più garantito da un governo di coalizione ampia e da una leadership credibile anche a livello internazionale, in sede internazionale come quella di Monti. Questo lo posso dire. Bene. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte, perché affonda il becco su di me. Ai ai, mi ha beccato, ai ai, mi ha beccato. Gratta, gratta, ma peggio è. Pure lo spray a di zanzara mi son messo il piede. C'è una strategia dietro la quale quello che c'è non lo so, ma spero di scoprirlo, perché prima gli spacco il culo a tutti quanti. Ma no, dai. No, ma dai, ma non si può. Hai provato a chiamare De Benedetti, qualcuno all'Espresso? Ma vada a fanculo lui e chi l'ha messo al mondo. Ma no, perché? Che ha fatto non De Benedetti? Si può dire così. Ma basta, non si può. Favore, mi sono rotti i coglioni. Ma che ha fatto De Benedetti? Che non ho capito. C'entra? Che non è neanche più l'editore. C'entra De Benedetti, parlo dell'Espresso. No, è uguale. De Benedetti è il gruppo Espresso. Quello che hai detto, si arrabbieranno anche quelli dell'Espresso adesso, giustamente. Vabbè. Come si arrabbierà l'Espresso? E si arrabbieranno i colleghi che hanno scritto il pezzo. Ma è arrabbiato lui. Ma quelli che hanno scritto il pezzo si arrabbieranno, se hanno le cose documentate. Hanno pubblicato questa cosa. Sono dei mascalzoni, che possono arrabbiare quanto vogliono. Se però è vero, poi dicono... Avrebbero scritto che Berlusconi ha dato 800.000 euro. Ma quando mai? Fanno parte anche loro di quella banda che sta tentando in ogni modo di mettermi fuori gioco. Ciao. Ma questo è Fufu. Titoli del TG3. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. I partiti da Napolitano per valutare il percorso della crisi. Alfano, finita l'esperienza Monti, ma vogliamo una conclusione ordinata della legislatura. Bersani, PDL è irresponsabile, per anni ha negato la crisi e l'ha scaricata sui più deboli. Casini, basta giocare sulla pelle degli italiani. L'area di crisi blocca la discesa dello spread, che anche oggi tocca i 330 punti, pesano anche le previsioni negative sulla crescita tedesca. Il rapporto Censis, italiani più poveri ma sopravvivono alla crisi, crollo del ceto medio, si vendono gioielli di famiglia, si fa il pane in casa, meno iscritti all'università. Cancellieri a Scampia, nell'asilo dove è stato ucciso un pregiudicato, penso di inviare più militari, martedì notte luci accese nelle scuole del Napoletano. Alta tensione in Egitto, al Cairo in migliaia hanno sfondato le barricate di sicurezza e stanno marciando sul palazzo presidenziale, accusano Morsi di calpestare la legge. Da prima alla Scala, in scena il Lohengrin di Wagner, diretto da Barenboim, in piazza le proteste di centri sociali, disoccupati e lavoratori di aziende in crisi. Qualcuno l'ha chiamata la grande leccata. Il cosiddetto bacio della pantofola, Parenzo, eh? Cosiddetto? Bacio della pantofola. Che meraviglia. Maria Stella Gelmini, parlamentare PDL. Per fronteggiare la sinistra di Bersani Vendola CGL serve un combattente capace di raccogliere la sfida. Nicola Cosentino, parlamentare PDL. La decisione del presidente Berlusconi ci riempie di rinnovato entusiasmo. Daniela Santanchè, presidente, abbiamo bisogno di te per difendere la libertà. Marco Milanese, avanti tutta. Perché poi avanti tutta? Ma uno non indagato, perché non hai... Ah, no, aspetta. Michela Vittoria Brambilla, Berlusconi è il primo e migliore interprete dei valori e delle aspettative del nostro popolo. Beh, su questo ha ragione. Brunetta, finalmente ho rivisto il sorriso sui volti dei miei colleghi. Con Berlusconi rivoluzionario sento aria di vittoria. L'hai letto male questo. Io ho rivisto il sorriso. Nunzia De Girolamo, l'Italia ha bisogno di una leadership forte e coraggiosa. Non con l'annunzio, no. Deborah Bergamini, finalmente il dado è tratto. Quale dado? Senti quest'altro. Laura Ravetto, basta con inutili esitazioni che appaiono l'eutanasia degli indecisi. E potrei proseguire a lungo, eh? Magari vi annoio, magari state... Barbara Matera, europarlamentare PDL, si passa all'Europarlamento. Coerenza fino alla fine! Ma che vuol dire coerenza fino alla fine? Una sola coerenza fino alla fine. C'è la Matera, ogni tanto risorge, c'è la Matera, non si dimentica dell'esistenza. No, però è deputata. Perché è mai nata, però... scusa. Eh? È mai nata? No, però uno dice, ma chi è Barbara Matera? Ah, già, che l'eurodeputata che arriva al Parlamento. Sì, sì. Licia Ronzulli, parlamentare PDL, europarlamentare. Il centrodestra ha bisogno di un attaccante che faccia gol, ecco. Che trascini la squadra. C'è Ronzulli. Ma... Poi c'è anche Umberto Bossi, che però, come dire, cambia obiettivo. E ma ora che... Monti deve sparire dalla faccia della terra. Ma via Twitter, no? No, l'ha detto, non so dove. Deve sparire dalla faccia della terra. Deve non sparire usa. Dalla faccia della terra. Umberto non usa mai quelle... Scusi, Bossi, ma può dire per favore ad Albertini cosa ne pensa della sua candidatura, Bossi? Bossi, no, Bossi Parenzo, Bossi Parenzo. Albertini è un coglione, una scorreggia dello spazio, come dicevo di Miglio, la stessa cosa posso dire di Albertini, una scorreggia dello spazio. Viva Berlusconi quando taglia i cordoni o che stacca la spina con Monti. Noi siamo la Padania, siamo un paese sovrano. Dobbiamo farci ridare i soldi dal Bersito. Ma con Andrangheta e dopo andiamo alla grande con Marrone, che ha due Marrone così. Viva Marrone, anche lui è bravo, tutti sono bravi, purché siano leghisti, bravi leghisti. Scusi Albertini, però il suo capogruppo al Parlamento Europeo, Mario Mauro, ha detto che Berlusconi è inadeguato. Lo può ripetere anche lei, per favore? Me lo faccia sentire da lui. No, virgolettato, non l'ha smentito. Berlusconi si è arrabbiato dicendo che è un ingrato. Io sono è inadeguato, sarebbe... Io sono assolutamente d'accordo su tutto col mio capo delegazione Mario Mauro. Ah, è d'accordo anche su questa frase qua. È inadeguato a guidare questa il paese. La devo vedere. No, lei ha detto sono d'accordo su tutto. No, è però così. Sulla linea politica, e cioè sulla rifondazione su questo sono d'accordo. Del PPE. Sì. Mi lasci dire. sulla rifondazione. E vabbè, d'accordo, quello lo sappiamo. Perché in Europa lo siamo già, bene. In Italia ci siamo persi. Sì. La chiusura alla Lega, partito anti-europeo. E vabbè, d'accordo. Accoglienza dei movimenti Montezemolo, eccetera. Questo è il disegno politico in cui mi riconosco. Lui ha detto che Berlusconi è inadeguato. Lei è d'accordo, sì o no? Questo lo devo sentire da lui. No, l'ha detto. Già l'altra volta mi avete fatto dire una cosa che non era del tutto riscontrata. Ma come no? Ma è così. Ho il suo numero di telefono, lo chiamo. No, ha detto poi... è inadeguato, sarebbe inadeguato a governare il paese, una figura inadeguata a governare il paese. Questo me lo lasci riscontrare. Io ma ho capito, ma avrà un suo pensiero lei? Avrà un suo pensiero lei, Albertini? Io non userei gli stessi termini. Ho detto che sono deluso dal fatto che Berlusconi abbia cassato le primarie. E vabbè, d'accordo. Questo aveva in animo di, anzi più che in animo, aveva già deciso di attuare, che ha fatto un discorso contraddittorio tra e Gernetto, e io mi riconosco in il primo Berlusconi. Vabbè, il primo Berlusconi, se mai, se ormai su non... questi argomenti, sulle espressioni di Mauro, me li lasci verificare con lui e poi le dico quello ma che Albertini, penso. Onorevole Albertini, diciamola come dicono in Europa, come dicono i quotidiani inglesi, semplicemente prendere atto che è unfit. Ormai. O no? Non ho capito, unfit. Tutti parliamo inglese qua. No. È un argomento che non voglio affrontare. Non vuole affrontare. In questi termini. Io ho rispetto delle persone. Benissimo. Posso avere delle opinioni certo, diverse, non c'è e dubbio. Ce li ho sicuramente dal presidente Berlusconi, però non mi sento di usare questi termini nei suoi riguardi. Ma il ticket Maroni-Gelmini sarebbe nefasto per la Lombardia? Quando c'è Maroni e Gelmini, con Maroni vanno bene tutti, anche la Gelmini, tutti vanno bene. Tanto farebbero... Che sia Maroni presidente. Cioè... Anche la Mauro, ci recuperiamo la Mauro, la mettiamo insieme alla Gelmini. Mauro e Gelmini, due donne sotto Maroni, con due Maroni. Così. Scusi, un vice del PDL, che cosa sarebbe con io vedrei bene una trinità. Cioè? Maroni, Mantovani e Podestà. Perché? Mi è venuta anche la rima. Perché? Non l'ho fatta apposta. Perché? E così sono più equilibrati, no? Cioè Maroni, presidente, e poi due vicepresidenti che così compensano. Che fanno? Che fanno? Con due. Che ruolo avrebbero quelli di quello dei inutile? Due vicepresidenti, poi le deleghe se le gestiscono loro. Allora ritorno alla domanda. Lei è contento nel caso di far perdere il PDL alleato di Maroni? Perché questo si prospetta. Cioè lei resta comunque in corsa? Non sono contento di far perdere nessuno, sono contento di fare vincere sì. il rassemblement sì. così dire, dei liberali d'accordo. Democratici europeisti che stiamo costruendo. Ma lei è comunque, resta comunque in corsa, a prescindere da quello che deciderà il PDL? Assolutamente, anzi, proprio perché il PDL sta facendo una scelta che non condivido, cioè quella di allearsi alla Lega. Ormai la sta facendo, è fatta ormai. Dal punto di benissimo, allora vuol è dire fatta, che sì ne o farò no? un'altra proprio per affermare la mia diversità da questa linea. E se perdono? E se perdono lei è un po' contento, eh? La democrazia vince qualcuno e perde. Cioè non le importa poi se perde Maroni più PDL. Ma la questa è un'aritmetica. Noi non abbiamo di perdere o vincere è soltanto un mezzo per fare che cosa? Per ottenere la fiducia dei cittadini. No, ma certo, ma quello è chiaro. Per perderla se si perde. E però fare un'azione di governo nel bene della comunità. Ma questo è chiaro. Ognuno ha il suo concetto di bene della comunità. Il fatto che vinca la sinistra non è una cosa che non è una catastrofe, insomma. No, è un fatto della democrazia. Io sono milanista. Ci sono voluti 17 anni prima che l'Inter vincesse il campionato. Lei, no? E quindi, cioè, se vincesse la sinistra per la Lombardia non sarebbe un dramma. Non è un problema. La democrazia deve essere rispettata. Quello che mi pare un problema, invece, e da cui mi dissocio, è mettere insieme una testa di toro e un corpo da uomo. Cioè la Lega e il PDL della Lega è contraddittorio rispetto a quello che è il pensiero, i valori, il sistema del PDL. Guardi, comunque ha detto così Mauro, Berlusconi non è più un leader adeguato, lei è d'accordo o no? Guardi, c'è un'ansa, per cui non è la zanzara, eccetera. Lo devo ascoltare le parole per dire la mia opinione. Berlusconi non è più un leader adeguato. Luca, lei ha detto io sono d'accordo al 100% con quello che dice Mauro. Rispetto le opinioni del mio capo delegazione, però mi permetta che prima di esprimermi allo stesso modo nei riguardi del presidente Berlusconi, voglio sentirlo dalle sue parole e parlarne con lui. Quello che ho detto non è una piaceria nei riguardi di nessuno, anzi contesto la scelta del presidente Berlusconi di allearsi con la Lega, un partito che non ha niente a che vedere con l'Europa, con la nostra visione del mondo e che serve soltanto per riempire un po' di seggi al Parlamento e sarebbe il primo a girargli le spalle. Non lo capisco, non lo condivido, farò una scelta contraria. Questo grazie, è quello che posso dire. Grazie. No, non mi esprimo nei termini che lei ha detto nei riguardi di nessuno, perché rispetto le persone e il loro punto di vista, anche se me ne dissocio. Oggi ho scritto al presidente dell'Impigi che il fondo pensioni, i miei soldi, va bene, li posso avere fra 7 anni, e andate a fanculo tutti, questa è la verità. Ma Emilio, Emilio, scusa, no, ma no, che no, vi avete rotto i coglioni, voi compreso. Ma noi no, ma chi... voi ha rotto i coglioni. Ma chi ti ha scritto queste cose? L'Espresso. Mi dicono l'anticipazione dell'Espresso, ma vada a fanculo. L'Espresso è chi fa da capofila all'Espresso, che Berlusconi mi avrebbe dato 800.000 euro. Sì, ma così quale hanno... cazzo di 400.000 euro. Siamo qui 800 24 00 24, la Zanzara. Parenzo, mi sconvolge riascoltare il dramma di un uomo, di un direttore, di un giornalista, ma soprattutto di una persona che è sconvolta. Francesco dalla provincia di Bari, buonasera. Sconvolta da questo. Pronto? Dica. Buonasera, volevo intervenire in merito proprio allo sconvolgimento di Parenzo per quanto riguarda Emilio Fede. E sicuramente, voglio dire, se voi la ritenete una trasmissione seria, come scusi? Se voi ritenete questa trasmissione che svolgete seria, non so cosa significa la parola seria. Esistono le trasmissioni, punto. Le trasmissioni serie, quello appartiene al mondo dei giudizi. Se le posso dare il mio, se non mi sembra no? Siamo qui per questo. Ecco, allora, se dobbiamo partire con una campagna elettorale, che sicuramente si avventa a breve tempo, giustamente, se voi la mettete in cacciare, chiamate Fede in un contesto. Cosa c'entra la campagna elettorale con Fede? Scusi, non ho capito. A parte che ha presentato un movimento politico. Mi faccio finire l'argomentazione. Ma io faccio, scusa, abbia pazienza, se caro devo Francesco. Andare in chiesa, vado per pregare. Se vado alla locanda, bevo e poi sono un palticcio e do. Questa numeri. Qua è una locanda, non è una chiesa. Sì, quella è una locanda, sicuramente. Con Parenzo che dà delle affermazioni, ridete prima di chiamare Fede, lo chiamiamo. Lo chiamate, io non sono, non voglio essere il difensore di Fede. No, ma lei non deve difendere nessuno, anche perché Fede non è. Però mi sembra sbagliatissimo alzare i toni già dall'inizio della campagna facendo questa. Ma alzare i toni informazione, chi? Perché è da merda proprio svolgere le trasmissioni in questo modo. E aggredire delle persone, la pensione, le chiacchiere, la buttate in cacciare. Siete proprio degli incoscienti. Incoscienti. I giornalisti come voi, sì. I giornalisti come voi rovinano l'Italia. Rovinano l'Italia. Questo, sì, come te, come Parenzo. Perché facendo questo non fate altro che appizzare la destra contro la sinistra, la vecchietta che viene a Narella. Ma che fate? Noi siete. Noi. Sì. Cioè noi siamo un pericolo per la democrazia. Ma quale veicolo la magari? Tu sei un veicolo fermo sulla strada e speriamo che passa un camion e che ti investa pure. Ma vabbè, lei è veramente un moderato liberale? Vabbè, un poveraccio. Sì, un uomo di poveraccio. Ma mandate l'ambulanza, mandatemene una. Ma no, non c'è bisogno, guarda. Non c'è bisogno, non mandatene una buona. Almeno non dovete sparare voi sulla Croce Rossa. No, guardi, perché Francesco, state sparando sulla Croce Rossa, siete delle merde, ve lo dico insieme a Fede. Ma lei lo può dire tranquillamente, non è un problema, ce lo facciamo dire, ce lo pigliamo. Benissimo. Ma lo sa qual è il problema? Che per lei non ci vuole l'ambulanza, sarebbe anche inutile perché è un caso ormai disperato. Ma andate a fanculo, non si fa così il giornalismo. Stia calmo, stia tranquillo. Dovete far calmare l'Italia, l'elettorato. Noi non dobbiamo far calmare nessuno. Siete delle merde facendo così. Stia tranquillo, stia tranquillo. Siete delle merde. Stia calmo, stia calmo. Poi se vuole l'indirizzo ce l'ha, il numero di telefono, faccia indirizzo, ma di che cosa? Vorrei pure affrontarla a quattro occhi, quel coglioncino di Parenzo. Perché voglio dire, già mi fate schifo quando vi vedo di passaggio nella televisione, mi fate schifo. il vomito. Guardi, della vita. Posso dire aspetta, che... aspetta, fallo continuare, così si sfoga. Così si sfoga bene. Punto. No, mi così schifo, si è sfogato dalle sue frustrazioni quotidiane, noi siamo qui anche per questo. Ma grande... le frustrazioni ce le avete voi, le segmentate. No, io non no. È che voglio... Ma mi ha nominato Fede, avvocato. Sono un povero Cristo che voglio dire, ah, dico la giornata. Sicuro. Ma siete dei coglioni facendo giornalismo così. Ma quale? Ma di che sta parlando? Coglioni, di cosa parla? Siete coglioni patentati. Bene, si è sfogato? Si è sfogato? Mi sono sfogato benissimo, andate a fanculo. Alla prossima. Grazie. Antonio, sta meglio adesso? Adesso sta meglio, sì, dato un caso irrecuperabile. Antonio dalla provincia di Rimini. Antonio, pronto? Sì, dica, pronto, dica. Buonasera. Sì. Chiedo scusa, volevo dire che sono felicissimo per Berlusconi che ecco è rientrato in campo, viva sì. L'Italia, perché l'unico politico viva di razza l'Italia. Che abbiamo in Italia sì. È Berlusconi. Come hanno sentito che lui riprendeva la situazione in mano, hanno preso tutti paura, dal PD, di tutti quanti. Tutti io vorrei sapere, perché ce l'hanno tanto con Berlusconi, che forse è l'unico uomo che, se vuole, può salvare l'Italia. Solo questo volevo dire. Ecco. Viva Berlusconi, viva l'Italia. Viva l'Italia. Viva l'Italia. Grazie, Fabio da Genova. Bravo, questo. Lucido. Buonasera. Niente, vi ringrazio di questa opportunità. Ecco, io volevo solamente intervenire nella duplice veste di collega, in quanto sono corrispondente di riviste internazionali e di elettore. Lei anche che cos'è, del centrodestra. Scusi? Che cos'è? Allora, la prima per dirvi che. No, non ho capito che cos'è lei. No? Insieme. No, non ho capito che cos'è lei. Corrispondente di cosa? Di riviste internazionali, così, in generale. Esatto, proprio oggi ero insieme sì. A un gruppo di editori inglesi. Editori inglesi, certo. Qua mi dicevano, ma come mai non ci sarà un Monti bis? Noti editori inglesi, certo. Ecco, come mai non ci sarà un Monti bis, eccetera. Io ho spiegato semplicemente che certamente Monti è più presentabile sì. A livello internazionale perché... Non solo ha una plomb e una vita privata sicuramente meno pruriginosa, non c'è dubbio. Quindi, sì. Però di fatto il governo Monti ha fatto un lavoro chirurgico. Nel chirurgico, senso che certo. Ha una cosa scusi, tagliato. di grazia, signor Fabio. Chi sarebbero questi editori inglesi? Ecco. Così tanto per sono capire. È una stampa specializzata certo. nel settore del petrolio, nel settore del petrolio, non c'è dubbio, dell'oil and gas, quindi sono corrispondente di carattere tecnico. Bene, ecco. Fabio, ma scusi, non ho capito, ma da noi che vuole lei stasera? Cosa vuole dire? Ancora non si è capito bene. Volevo intervenire proprio per il discorso essendo un elettore di centrodestra, volevo sì. Dire, guardate il problema anche dal punto di vista della base. Ecco, il mio intervento certo non è aulico come quello della Santanchè o di Brunetta, però voglio dire, guardate anche la prospettiva. Guardando la base, allora, guardando la base, che cosa viene fuori? La base. Allora, noi siamo, fino a prova contraria, sì. La maggioranza del paese. Chi? Ancora... Ma noi chi? Noi del centrodestra, cioè voglio dire... Ma chi l'ha detto? Ma chi lo sostiene? Beh, insomma, le ultime elezioni le ha vinte il centrodestra, giusto? Sì. Non credo sia negabile questo, no? Parenzo, ma la chiami tu o la chiamo io? No, è che ci è bloccata per tirare no, sull'altro no, no, signore lasci, che ha chiamato prima. Finire. Sia gentile, mi lasci finire, no, io quello che voglio dire no, è ma questo. Sia gentile lei, si faccia fare una punturina di 25 ml di soluzione salina. Vabbè, ma io me la faccio fare. Ho capito, Fabio, ma è 5 minuti che medico, ma è 5 minuti che lei lì vorrei, e non si è capito niente. Vorrei potermi scegliere il medico. Volevo solamente dire... Lei dice che Berlusconi è l'unico leader adeguato, questa no, è la realtà. No, io devo dire... Allora, guardiamola dal punto di vista dell'elettorato, no? Sì, dell'elettorato. Allora, noi adesso vediamo che chi possiamo votare noi? Noi chi? Del centrodestra, voglio dire... Chi possiamo votare? Che ne so io? Che ha fatto l'alleanza con Vendola? E no? Chi vota lei? Vogliamo, chi vuole votare? Non so, votiamo Beppe Grillo? Ma non lo so, me lo dica lei. Votiamo, non so, Casini? E me lo dica lei Casini, chi voterebbe? Voi, chi voterebbe lei? È più presentabile di Berlusconi? No, me lo dica lei, chi voterebbe lei? Ma glielo sto dicendo. Ok, voterebbe Berlusconi. Lo, grazie te lo Fabio, sto grazie. Dicendo, grazie. Da collega? Ma che collega? Grazie. Ma che me ne frega del collega? Well now, little mosquito, there must be. Beh, c'è un grande personaggio con noi, c'è un grande personaggio, caro Parenzo. Chi è? C'è un grande personaggio, persona che io personalmente ho anche criticato, perché è giusto, qui non è che si pettinano le bambole, come si dice, no? Però è qui con noi stasera il neo assessore alla Sicilia, al turismo, Franco Battiato. Buonasera. Sera. Buonasera. Grazie, maestro, come sta? Sentiamo la critica, voglio sentire la critica. No, la critica è stata questa, maestro. Come la devo chiamare innanzitutto? Maestro, no, non c'è bisogno, niente appellativi. Niente appellativi. Battiato, così, va bene così. Sì, quando... No, la critica è stata questa. Quando lei disse, io insomma ho la mia, le mie cose da fare, non posso accettare di fare l'assessore alla cultura, al turismo, eccetera, eccetera, voglio fare solamente il turismo. E poi dicendo anche che aveva un tour da fare, no? Che aveva anche le sue date da fare. No, qui aspetti che sta facendo un po' di confusione. Che confusione ho fatto? Cioè il turismo ingloba lo spettacolo, non è... No, scusi, turismo e cultura, cultura e turismo, all'inizio era quello. Era quella allora, la cosa. Ma Crocetta ci teneva talmente tanto che mi ha detto tu non ti preoccupare, fatti i tuoi tour così, eccetera. E allora ho detto di sì. No, certo, ma la critica mia è stata questa, di fronte anche all'opinione pubblica. Lei per carità non prende lo stipendio, questo l'abbiamo già detto più volte. Allora, magari c'è bisogno di una figura più presente, dico, no? Rispetto a un assessore itinerante, adesso lo dico in senso un po' ironico, naturalmente, lei capirà, Battiato. Però un momento, chiariamo una cosa. Sì. La mia non è una presenza politica, è una presenza creativa. Ecco. Creativa. Infatti saremo due all'interno di quello che si chiama. Ma potete richiamarmi perché ho l'eco che si accavalla alla mia voce. La richiamiamo subito. Sì, maestro. La richiamiamo subito. Eccoci qui. Allora, no, intanto, però questo è importante. Quello che andiamo, intanto andiamo a Firenze. La Morena, sua è una presenza Morena. Creativa. E questo è fondamentale perché spiega la cifra del suo mandato. È bellissimo quello che ha detto. Morena, dica. Importante. Moreno. Moreno da Firenze. Moreno, dica. Buonasera, dottore Cruciani. Io, allora, premetto che lei mi sta molto simpatico, però su Berlusconi, come si dice a Firenze, piscia fuori dal vaso. Cioè? Sì, glielo dico io perché. Perché Berlusconi è stato costretto a scendere in campo dopo che il popolo del PD, stronzo, cioè ha perso l'occasione storica di scegliere il nostro concittadino Matteo Renzi. Ma che vuol dire? Scusi. Che poteva mettere d'accordo tutti e ad andare al governo. Allora Berlusconi scende in campo per salvare il paese dai comunisti. Ma che comunisti, dai, su Moreno, sì, la smetta sì, con dai queste comunisti, cose. Dai comunisti, perché con questi, con Bersani, con quelli, sono degli spenti, sono dei morti, non hanno idee, non porta a niente, cioè se rifà più dopo D'Alema, ma non esistono più i comunisti, non esistono più, Moreno, i comunisti, esiste il Partito della Rifondazione Comunista, esistono i comunisti italiani che non sono con Bersani, dunque i comunisti non ci sono là, poi ci sono gli ex comunisti, vabbè, è inutile che le rifaccio la storia, questo. Scusi Moreno, abbia pazienza. Allora, siamo di nuovo con Battiato. Io voglio chiederle questo, cioè di fronte anche all'opinione pubblica, il fatto che ci sia un assessore, come lei dice, creativo, che in realtà fa anche giustamente il suo mestiere, un po' stride, no? Uno vorrebbe magari un assessore più presente, una persona più presente sul territorio a pieno regime, che lavori 24 ore su 24, Battiato. No, questo non è possibile, il mio ruolo è un altro, lui... Diciamo così, sì. In qualche modo mi ha usato, perché in effetti le speranze del popolo siciliano sono alle stelle in questo momento. Sì. È una cosa che non ho mai visto nella mia vita, cioè? Diciamo. No? Cioè come sono alle stelle? Cioè, nel senso stanno credendo molto in questo rinnovamento. Di Crocetta, sì. Perché grazie a Dio Crocetta ha preso una giunta di uomini che non hanno contaminazioni, è chiaro questo. Sì. Allora, devo considerare che per il lavoro che faccio io lo posso fare anche da Berlino o da Parigi, dovunque mi trovi, capito? Sì, perché si tratta di avere idee. Cose che ho avuto in passato, ho fatto 9 anni il violino e la selce, ed era un festival, venivano da tutta Europa. Sì. E che cosa facevo io? Facevo la stessa cosa che devo fare adesso. Cioè? Scusi, maestro. Non è che ho da fare con gli impiegati, anche se poi li ho incontrati, sono circa... Bravo. Sono 180 nel però non deve avere a che fare con gli impiegati. No. Dice lei. No, diciamo che ogni tanto mi faccio vedere, se hanno dei problemi li risolvo, ma non è questo il mio lavoro, ma perché lei ha idea di quello che hanno combinato? Chi? Quelli precedenti. Che hanno fatto? Di qua, idea come in che condizioni è la regione siciliana. È piena di gente che, soprattutto c'è un sacco di dipendenti che non ci dovrebbero essere, cioè è pieno di dipendenti inutili. Non è solo quello, no, quello meglio gente che guadagna almeno quelle 1.000-1.200 euro, quelle che sono al mese, che non i miliardi di deficit che hanno creato. Beh, però il deficit si crea anche con quello, cioè non ci sono troppi impiegati alla regione Sicilia, cioè non ci sono troppi dipendenti. No, lei sta confondendo veramente completamente le cose. Cioè? Cioè, qui c'è gente che ha preso delle case che appartenevano alla regione. Sì. Cioè, un signore ha preso 19 milioni di euro dai biglietti dei musei, se sì. li portava lui a casa. È chiaro questo? Addirittura. 19 milioni di euro. Dai biglietti dei musei? Sì. Cioè rubati così? Rubati, sì. Come no. chiamare? Cioè, lei... Ha presente l'Usi? Sì, come no? Certo. In questi casi in Italia ce ne sono un mare. Per cui lei dice, altro che, cioè, prima di me c'è stato il diluvio. Esatto, quindi anche se lavorassi una volta ogni 6 mesi sarebbe già un successo enorme. Ho capito, scusi un attimo. Io le dire, ripeto, che sono... so quello che devo fare. Cioè idee, avere idee per il turismo e per lo spettacolo. Esattamente, della sì. Avere idee. No, dunque, io ho curato il mio tour europeo proprio per seminare... Cioè il tour europeo per seminare cosa? Tour per europeo? Seminare i miei progetti. Quindi quando vado a Berlino farò un incontro con l'Istituto di Cultura. Ah, ho capito, ho capito. A Parigi farò la stessa cosa, a Londra la stessa cosa, a Madrid la stessa, a Barcellona la stessa. Poi quando sarà il momento metteremo in rete tutte le nostre sì. Idee per far venire qui un po' di gente a divertirsi. Però scusi, in questo, da questo, ma hai ragione, da questo punto di vista, sì, scusa Parezzo, da questo punto di vista però dico, allora quante volte, cioè non è manco necessario andare a Palermo in realtà, ma no. Ormai? No, beh, ci devo andare perché ho questi signori che ho incontrato, sì. che finalmente stanno prendendo gusto sì. a lavorare. Hanno bisogno anche di... Capito? Hanno bisogno di una presenza. Finito poi questo tour, io posso andare lì tutti i giorni, capito? Ho capito. È il tour, il problema è adesso il tour, che però lei utilizzerà, ha detto, per promuovere, per incontrare persone che poi possono venire in Sicilia, eccetera, eccetera. Esattamente. Scusi, si è arreso la giacca e la cravatta, oppure si arrenderà la giacca e la cravatta, oppure no? Ecco, vede, questa è una tipica cosa. Lei deve sapere che quando io, siccome viaggio molto, sì. in questo periodo, no? Sì. Ogni volta che mi trovo sull'aereo oppure all'aeroporto, sì. così... c'è un entusiasmo, e se quel signore che ha detto quella cosa lì sapesse le ingiurie che si è preso per strada, no? Perché dicevano meglio uno col pullover che non un ladro con la cravatta. Ah, così gli hanno detto? Eh sì, questo è quello che mi hanno chi detto. È che l'ha detto poi quello là, quella cosa sulla giacca e la cravatta, che non mi ricordo più? È il nuovo presidente dell'assemblea. Ah, Ardizzone, no? Sì, Ardizzone. Effettivamente le dico, non lo sapevo. Beh, vabbè, ma non è una cosa grave, secondo me. No, adesso diventa seria la cosa. Forse non lo farò, capito? Cioè, perché non lo fa. Non doveva pubblicamente dire una cosa del genere. Non si dicono queste cose. Per cui lei apposta. No, me lo doveva dire. C'è questo protocollo. E magari avrei messo la cravatta. Però se lo dici pubblicamente, come se io fossi un. Un cafone, diciamo, sì. No, cafone non è questo. Perché... Beh, non è certo un'istituzione che mi possa intimidire. No, voglio dire, le ha dato quasi dell'irriverente, del cafò, di quello che non rispetta il protocollo pubblicamente, gliel'ha detto, no? Esattamente, sì, sì. E dunque adesso lei lo farà apposta ad andare col maglione invece che con la giacca e la cravatta? O no? Ti spingono a questo, ora cosa dice lei? No, ma lei farebbe bene secondo me, perché ma che è sta cosa? Ma da questo punto di vista però Battiato ha ragione. Cioè conta di più essere una persona con le mani pulite, come direbbe Parenzo, certo. oppure uno che si mette la giacca e cravatta. Sai quanti ladri ci stanno in giacca e cravatta? È pieno di ladri in giacca e cravatta, anzi quelli i più ladri di tutti sono in giacca e cravatta, o no? O no, Battiato? Questo è ottimo. Quando la zanzarita tormenta la mia noce. Eccoci qui alle 20 in punto, 800 24 00 24, con Davide Parenzo in collegamento da Roma, in collegamento invece da casa sua, non so dove, Franco Battiato, che odia la parola assessore, però noi la diamo lo stesso perché sempre assessore è. Battiato, mi dica una cosa, ma il ritorno di Berlusconi come lo vede? Guardi, per me non rientra nella mia, come posso dire, estetica. Insomma, sono completamente indifferente. Indifferente addirittura? Sì. Cioè, però le prova con qualche, capriccio. Le prova con qualche sensazione il fatto che Berlusconi ci riprovi ancora una volta. Contento lui? No, vabbè, sì, contento lui, quello sicuramente, se uno lo sceglie sarà contento, però insomma, per il paese che scelta è secondo lei? Pessima. Pessima, pessima. Sì. E lei adesso quando... a noi, le volevo dire, sì, che per essere precisi, sì, ho due collaboratori che ho scelto, sì, con cura, sono sulla mia stessa lunghezza d'onda, sì, chiusa parentesi. Ma che avrà? L'altra che devo dire è che Crocetta ha avuto un occhio molto speciale nella scelta di questa giunta, sì, perché ci sono sei donne, una più in gamba dell'altra, sì, la settima la conosco meno perché una riciclata da un altro faceva la sovrintendente, mi pare, sì, all'orchestra, sì. E dunque? E anche i maschietti, che siamo in cinque, insomma. Vabbè, insomma, lei è molto ottimista per questa giunta, mi sembra di capire. Senta, credo proprio di sì. Senta, no, una cosa, ma dire, signor Battiato, lei, sì, non si interessa, cioè, della macchina organizzativa dell'assessorato, di quanti soldi ci sono, giustamente se ne frega un po', perché io mi devo occupare di scenari, non di sapere di funzionamento della macchina, non le interessa quello, giusto? No, invece mi interessa, perché entrando con la gamba tesa, come si dice in questo momento, no? Ecco, c'è bisogno, sì, che la macchina burocratica sia con la nostra stessa, se mi permette il termine, qualità, sì, per cui se si fanno dei contratti vanno rispettati, sì, non è che si possono imboscare le pratiche come di solito fanno per non far andare avanti le cose e poi fare portare indietro i soldi da dove sono venuti, cioè un pasticcio enorme è stata, sì, questa cosa qui. Scusi, ma fino il difetto principale della Sicilia fino adesso qual è stato secondo lei? Cioè le raccomandazioni? Il clientelismo da una parte. La clientela, pieno di... esagerato, diciamo, no? Clientelismo. E dall'altra soldi spesi senza alcun risultato, cioè praticamente presi, sì, senza fare niente. Si può dire che finora anche per lei la Sicilia, non solo la Sicilia, sia stata un po' la vergogna dell'Italia, da questo punto di vista, dico, da questo punto di vista. Beh, devo dire, quello che mi sta, ripeto, mi sta facendo sentire sì, la mia cosa giusta, no? Sì. Questa entrata, sì, è che dovunque vado in giro così, sì, c'è un entusiasmo, sì, anche di gente che non è che ha bisogno di qualcosa, stanno credendo, sì, che questa nuova storia potrebbe essere un inizio di una rivoluzione. Però veramente i siciliani non sono abituati sempre un po' a chiedere, non solo i siciliani in generale, sempre a chiedere, a aspettare. Sì, questi che mi incontrano negli aeroporti e nelle cose sono persone veramente con una lucidità, sì, e una... Sì. Hanno capito che questa cosa potrebbe essere veramente una soluzione. Però deve cambiare la mentalità anche, io credo, no? Cioè non solo chiedere, aspettarsi qualcosa, o sbaglio? No, beh, al contrario, tutti i soldi che sono stati spesi per motivi personali, sì, saranno dedicati a cominciare dai precari che hanno bisogno. Cioè, Crocetta, la prima mossa che farà, mi pare, se non ho capito male, sarà su 20.000 precari, che sono una cifra enorme. Ma si può dire che finora la politica in Sicilia ha fatto schifo, in gran parte, sì, si può dire. Diciamoci la verità. Si può dire, ha fatto schifo fino adesso. Sì. Scusi, però per esempio, se lei dovesse scegliere se allearsi con i grillini o con l'UDC di Cuffaro, con chi si allearebbe? Con i grillini subito. Cioè l'UDC di Cuffaro è stata una cosa disastrosa per la Sicilia, o sbaglio? Se ricordiamo Casini che ha detto io su Cuffaro mi giocherei le mani, mi crucerei le mani, però non gliel'abbiamo chiesto di farlo. Lei dice bisognerebbe chiedere a Casini di bruciarsi le mani, dice lei, no? A questo punto sì, forse no. Ma però Casini si propone al governo dell'Italia, Sì, ma voglio dire... Lei lo voterebbe mai Casini? No. Dunque, comunica bene da un certo punto di vista. Però? Però è in Parlamento da lontano. Cioè, ho incontrato questi ragazzi delle 5 Stelle e mi hanno fatto un'ottima impressione. Cioè, meglio loro dell'UDC, diciamo la verità. Come? Meglio loro dell'UDC. Ma non è questione di paragoni, io preferisco loro, ecco. Ma non sono i paragoni. No, certo. Ma scusi un attimo, oggi lei, Franco Battiato, per chi voterebbe in politica? Radicali. A livello nazionale. A livello nazionale? Sì. Si può dire, non è un delitto. Si può dire, non è un delitto. No, anzitutto ho votato Bersani, adesso alle cose. Ha votato Bersani, dunque voterebbe Bersani, insomma. In questo momento sì, direi così. È una sicurezza da questo punto di vista, no? Come? È una sicurezza da questo punto di vista. Beh, lo trovo uno serio. Sì. Quindi poi sono contento anche del successo di Grillo, naturalmente. Ma ormai però i due sono distanti, Bersani, che sono due cose molto distanti. Questo perché Grillo è un rettore da un certo punto di vista. Dovrebbero allearsi. Come? No, allearsi. Dovrebbero allearsi, lei dice. Mi sembra difficile che si possano alleare. Molto. No, non dico questo, dico che i suoi attacchi così esagerati, a volte veramente fuori dalle righe. Sì. Sono una tecnica retorica. Servono, in realtà servono questi attacchi, servono a dare una scossa, o sbaglio? Anche per me è così. Scusi, Battiato, ma quando torna l'era del cinghiale bianco? Ma adesso tu devi fare sempre le solite cose. Buonanotte. L'era del cinghiale bianco. Quando torna l'era del cinghiale bianco? Vabbè, il fatto è questo, che per esempio io sono nato subito dopo la guerra. Sì. Non c'erano soldi, non c'era da mangiare, ecco. Sì. Le porte erano tutte aperte, nessuno chiudeva le case, eravamo felici, sono stati anni stupendi, poi sono arrivati gli anni 50 appunto, e poi gli anni 60. Senta, immagini nel 2013 Berlusconi che ritorna a Palazzo Chigi, che scena sarebbe? Beh, non penso che possa succedere. Sarebbe un incubo, una specie di incubo? Un incubo, possiamo dirlo, sì. Un incubo. Dell'horror. Un film dell'horror addirittura, film dell'horror, non esageriamo. Ognuno ha diritto anche di candidarsi, no? Battiato, ognuno ha diritto certo, di fare... come no? Certo che sì. Ha diritto di fare la sua partita, il suo gioco. Infatti, se dovesse succedere qualcosa, se dovesse succedere... dobbiamo rifare tutti i conti. Ah, beh, lei dice che succedere qualcosa. Ah, lei dice che ci può essere la zampata finale di Berlusconi, che non si aspetta. Lei teme molto questa cosa qua, teme molto Berlusconi in campagna elettorale. Sicuramente, da come vedo io le cose e dalla... cioè, sono smembrati, poi però in un attimo si coalizzano chissà per quale strano motivo, no? E appunto dico, magari all'ultimo momento Berlusconi tira fuori la solita zampata in campagna elettorale e via, no? O no? Non gli riuscirà questa volta, di dire questo. Scusi, però le voglio fare una domanda a lei da siciliano, che avrà seguito sicuramente le peripezie di questa vicenda un po' complessa della trattativa Stato-mafia, eccetera, eccetera. Lei sta dalla parte dei PM o di Napolitano? Gliela metto giù in maniera molto secca. Mi dispiace per Napolitano, è una persona che stimo, io sto con Ingroia, non ho dubbi. Addirittura, come mai? Come mai? Come fa a farmi una domanda del genere? È una domanda. Non è che ci possano essere dei segreti, chiunque uno sia, no? Sì. Va bene, chiunque sia Presidente della Repubblica, quello che vuole lei, no? Sì. Deve avere dei segreti rispetto ai cittadini? E che siamo, scemi? E dunque deve rivelare il contenuto di quelle intercettazioni, secondo me? Assolutamente, la prima cosa è questa che bisogna fare. Subito. Quando io per telefono parlo male dei politici, ne dico di tutti i colori, sperando che sia intercettato. È chiaro? Ma guardi che non c'è tanto, anche se uno parla male, però quelle cose sono un po' più delicate, sa, la trattativa, le cose, i processi in corso. Ma che cosa trattative? Lo deve dire uno. Cioè ha sbagliato a parlare con Mancino, per esempio, secondo lei? Ha sbagliato a parlare con un indagato? Non è questo il punto, perché non si sa neanche cosa si siano detti, no? Sì, sì. E questa è un'azione... Sì. Che non va tutelato, non può essere tutelato. Però comunque ha attaccato i giudici, facendo quel ricorso in Cassazione, ha messo in difficoltà i giudici di Palermo, o sbaglio? Sì, certo che è così. Dunque, però i giudici di Palermo, cioè, voglio dire... I magistrati che indagano sulla trattativa. Il Consiglio Superiore della Magistratura è andato contro Scarpinato, cioè non so se ci rendiamo conto. Sì. Per cui cioè, ci sono dottori negli ospedali che potrebbero fare delle operazioni per guadagnare qualche migliaia di euro. Sì. E magari il paziente non ne ha bisogno. Ci sono dei preti, ho saputo, che spacciano cocaina. Addirittura. Per cui abbiamo a che fare con un mondo che è andato completamente. Ma tutto questo che c'entra con Napolitano, lei dice? Perché. No, che c'entra con Napolitano. Certo è che all'interno di una magistratura ci possono essere delle persone che non sono proprio dei magistrati seri e severi, no? Ah, no, certo. È questo che dico. Scusi un attimo, ma le categorie esistono, cioè, quello è un filosofo, quello è uno scienziato, vabbè, dimmi che cosa hai fatto. Cioè lei vuole dire che anche un Presidente della Repubblica può fare delle stupidaggini, insomma, da questo certo punto di vista. Sì. anche se, ripeto, stimo molto Napolitano. Sì, però in questo caso ha sbagliato, diciamo. In questo caso per me ha sbagliato, sì. Parenzo, che vuoi chiedere ancora? No, no, sono, gli auguro in bocca al lupo, voglio sapere quale sarà la prima missione. Ecco, no, la prima idea, ci riveli la prima grande idea per il turismo, lo spettacolo. Già in mente sicuramente qualcosa, portare un grande personaggio, fare una cosa, che hai in mente? Il primo atto. La meccanica è facile da dire. Cioè? Mi muoverò nelle zone che mi sono così care, quindi letteratura, sì, poesia, musica, classica. Bello. Poca, leggera, perché la leggera, grazie a Dio, è autonoma, no? Sì. Devono essere dei casi eccezionali. Sì. Fisica quantistica. Fisica quantistica. Le nuove frontiere della scienza. Sì. Che stanno andando a mille, sì, mentre abbiamo dei coglioni qui da pazzi. Tipo? No, non faccio nome. No, per esempio il professor Zichichi, che ha detto che vuole la Sicilia piena di centrali nucleari. Lì ha sbagliato, povero uomo. Povero uomo, ha sbagliato, eh. Povero sarà uomo. L'età. Sarà l'età. Simpatico. Sarà l'età, dice lei, no? Non dico questo, non posso dire questo perché... Vabbè, è nucleare, è a favore del nucleare. Devo dire che ha 104 anni e sta facendo dei film eccezionali. No, ma certo, certo. E che ne so, allora come mai ha detto questa cosa? È coerente con se stesso, però... Ma poi sì, l'ha ritirata un po', diciamo. Beh, l'ha ritirata, insomma, l'ha ritirata. Ha detto quello, nel senso che lui farebbe piacere, sarebbe felice se la Sicilia fosse piena di centrali nucleari. Lo so, capito, ma è il suo collega assessore. Ma io non ho capito bene, però ha ritirato un po' la cosa dicendo che era stata una... Insomma, scusiamolo. Proprio scusa. Praticamente sì. Il primo atto dell'assessore, ecco. Franco Battiamoli, praticamente. Il primo atto rivoluzionario, ecco. Quale potrebbe essere? Quello di salutarti. No, ma questo che... Buona serata, grazie. Saluti, maestro. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte, perché affonda il becco su di me. Ai ai, mi ha beccato, ai ai, mi ha beccato. No, ma noi chi c'entriamo noi? Tutti voi siete banda di figli di buona donna che avete organizzato il tutto, no, per tentare di distruggermi anche fisicamente. Avete capito? Oggi è, dice, l'espresso. Che Berlusconi mi ha dato 800.000 sì, euro. Mandate a fare in culo! Ma querela lì, mandate a fare in culo! Ma noi siete delle merda! Ma Emilio, ma perché siamo noi? Ma noi chi c'entriamo noi? Ha passato, che ha fatto? Ah, sono cavoli vostri. Moreno, allora, che diceva da Firenze? Sì, no, io dicevo... Ovviamente che... tutto questo lo ritrovate su tutti i siti italiani, europei e mondiali, lo sfogo, le urla di Emilio Fede qui alla Zanzara, ma non siamo stati noi ovviamente a diffonderlo, ce lo hanno chiesto in maniera pressante sin da ieri sera. Vabbè, è normale. Beh, è normale, sì, è normale... Evidentemente la gente ha fame di queste cose. Ha fame. Sono anche stati anche dei contraccolpi sui mercati, come hai visto oggi, per questo. Dici? Beh, lo spread, le cose. Moreno, allora? Sì, no, sento Parenzo e dice lo spread. Anche lui è un segugio del sistema, no? Perché c'è, cioè, lo spread, è chiaro che il sistema attaccherà Berlusconi, no? Perché Monti è un esecutore di ordini di tutti gli europeisti, no? Ah. Della Merkel, di tutti i banchieri, certo. È normale, capito? Glielo dica lì al suo amico, è così, sì, è così. Sì. Beh, certo, certo. E poi ho sentito, no, Battiato che diceva, se ritorna Berlusconi mi sento male. Sì, però lui intanto da grande stratega... Non ha detto questo, ha detto sarebbe un incubo. No, ha detto questo. No, e da grande stratega, cioè quello che secondo me in politica non c'è nessuno, pochissime, sì, persone, cioè ha dato il voto a Bersani, ma non lo si sapeva che se vinceva Bersani... quest'altro si diverte a rompergli, scusi il termine, i coglioni, cioè, perché voi, ma voi lo sapete che forse Silvio è capace di anche a rivincere di nuovo? Lei dice, ma voi non lo sapete? Lei dice, quanto, certo. quanto scommetterebbe lei sulla vittoria di Silvio? Ma 50 e 50. Ah, guardi, ecco. Io sono andato a votare, ho tutta la mia famiglia ha votato per Matteo Renzi, perché credo nei giovani, nel futuro. A vedere se i giovani riescono a fare. E lei adesso vota Berlusconi? Lei ha votato Renzi alle primarie, certo, del partito. Certo, e adesso Berlusconi alle politiche? Certo, certo. E che fa? Vota Bersani, cioè, e che ne so io? Ma come? Vota Bersani? Bersani, il limite dei 100 euro, il limite di quello, il limite di quell'altro. Ma questi non conoscano un cazzo, non conoscano un cazzo. Però è significativo, Parenzo, il fatto che il signor Moreno, più famiglia, sia andato a votare in massa, cioè in massa, insomma, vabbè, sarà uno, certo, per Renzi, e adesso non ci pensa proprio nemmeno lontanamente a votare per Bersani. Vota per Silvio Berlusconi. Vabbè, Moreno, grazie. Luciano da Sassari. Buonasera, coerente, dica. Coerente l'amico da Firenze, una persona coerente. Come mai non avete chiamato l'ambulanza? Vabbè, ma ogni tanto non è che possiamo chiamarla continuamente. Ciao Davide. Sì. Ti ho visto a Piazza di Pietra, Piazza di Pietra, vabbè. Come? Dice che ti ha visto a Piazza di Pietra a Roma. Non ero a Piazza di Pietra oggi, ma non importa. No, perché dai notizie false altrimenti. Vabbè, poi vada. Ascolti, dottor Cruciani. Ascoltando Battiato, non avevo capito all'inizio se era Fiorello o Battiato, vabbè. Uno dei peggiori difetti della Sicilia, lei gli chiedeva. Io penso che sia dato i Natali a Emilio Fede, comunque sarebbe banale. Addirittura adesso. Non infierisca, dai, non infierisca. Il Pirandello, i Camilleri, gli Sciascia, una terra di intelligenza, di cultura. Aver sentito questo che piangeva miseria ieri, infatti volevo proporgli, siccome usufruisco della legge 104, sì, adesso col nuovo progetto della legge 162 potrei assumere o una badante o un istitutore. E allora? Le badanti costano 8 euro lorde l'ora, l'istitutore sì, 15 euro. Gli volevo proporre uno stipendietto, poteva integrare. Gli prometto può che fare lo, comodo, eh? Sì, può sì, fare lo, comodo. Lo faccio vaccinare, lo faccio sverminare, lo porto dal veterinario. Addirittura. Lo faccio sverminare, terribile. Grazie Luciano, grazie. Sentite quelli eletti, i grillini eletti alle parlamentarie. Diciamo la verità, secondo me, dico una cosa molto forte, una enorme buffonata. Questa qua si chiama Daga, mettetemi pure il nome però, Daga il cognome. Sentiamo. Ciao, sono Federica Daga, ho 36 anni e vivo a Roma da 2 anni e mezzo. Questa che vedete è una fontanella di acqua pubblica. E adesso ci spostiamo, andiamo più in giù e vi faccio vedere un paio di cosette. Allora, vi mostro questa pianta. Questa è una pianta di aloe arborescens, è una delle varie varietà di aloe. Le sue caratteristiche sono che è una pianta antiossidante e anticancerogena. Beh, fino alla fontana pubblica ci arrivavo, l'acqua, le cose, ma l'aloe, poi mi sono un po' perso sull'aloe. Questa è stata eletta nel Lazio, cioè eletta, è stata scelta come candidata in Parlamento, al prossimo Parlamento nel Lazio. Oh, la Innocenzi che insegue Casaleggio, sentiamo. Stupendo. Casaleggio, buongiorno. Servizio pubblico. Le ho solo portato le 20 domande che girano sulla rete. Ci può entrare, scusi. Chi è il garante degli iscritti per il portale per le primarie, le primarie dei parlamentari? Casaleggio, ma se non risponde lei, chi risponde? Chi è il garante per queste primarie? Chi possiamo chiamare? T'avevo detto che qualcuno prima o poi inseguiva Casaleggio. Ma sai cos'è la cosa bella? Dimmi. La cosa stupenda dell'intervista dell'Innocente è che lei ogni volta è deputata a inseguire persone che non rispondono. Sì, ma poi soprattutto... È meraviglioso. Ma perché questa storia? Il garante delle prime, chi se ne frega? Ma quello ha ragione, su quello ha ragione. Ma che ragione? Dice, no, non puoi fare il furbo, il difensore di Grillo. Garante delle primarie, ma è tutta una buffonata, dai su. Ma li sceglie Grillo i candidati? Giovane. Ma di che parliamo? Dai, e su. Allora bisogna dichiarare che è una buffonata e non ammantare tutto questo come una grande operazione di trasparenza di web dal basso, perché sono stronzate. Bisogna dirlo. Ma io lo dico senza no, perché tu ultimamente in questa senza follia, fare l'antigrillino di professione, come in fai tu? Follia grillista. Ma io lo dico, l'ho detto sin dall'inizio della trasmissione che era buffonata questa cosa delle parlamentari, lo dico sin allora, ma è giusto lo che lei ponga la questione per aprire gli occhi la grillini. Questione che è il garante delle primarie, dai su. Dici, ma scusi, Taormina le scorte così per risollevarci un po'. La scorta di Taormina, sempre servizio pubblico. Innanzitutto sono Carlo Taormina con i miei problemi, con le mie difficoltà che si sono più volte rappresentate e che ha preso in considerazione l'autorità competente. Ah, subito intimidazioni? Sì. Varie cose. Io faccio una professione molto, molto complicata, molto a rischio. Quindi lei non sarebbe mai disposta a rinunciare? Ma perché devo rinunciare? Non ho capito perché devo rinunciare. Io sono un cittadino di questo paese che paga regolarmente le tasse. È giusto che valutate le cose da chi deve valutarle, se ritiene che sussistano i presupposti, che io sia garantito. Io sono Carlo Taormina, dice all'inizio. Sono Carlo Taormina. Ma perché devo rinunciare alla scorta? Perché? Io sono Carlo, lei chi è? Ma lei chi è? Gravissimo quello che dice, gravissimo. Non rinuncio proprio a niente. Non rinuncio proprio a niente. A niente. Rinunzi lei. Ma lei non ce l'ha la scorta. Lino dalla provincia di Catania, buonasera. Luciani. Vada. Io telefonavo perché lei poco fa, parlando con Battiato, si è espresso in una maniera, secondo me, abbastanza offensiva nei confronti di tutti i siciliani, dicendo che siamo abituati ad aspettare. Ma no, io era una domanda a Battiato, No, siccome io so che lei è molto attento nelle cose che ma dice... era un modo, veramente non sono attento per niente, altrimenti alcune cose non le direi. No, magari lo è. Vado lo molto è, distinto. Guardi, Lino, io non ho detto questo, ho detto un'altra cosa. C'è una parte consistente di siciliani, ma come di altre regioni, ho detto, in particolare del sud, che vivono in modo parassitario, bisogna dirlo, parassitario. Ma questa è la verità. Parassitario. In molti posti, non è solo la Sicilia. Ma io non ho detto infatti solo la Sicilia, in molti posti, insomma, in particolare al sud. In particolare al sud. In particolare la Sicilia non beh, è così. Al sud, non è così, non è così. No, allora, no, al sud sono più virtuosi da questo punto di vista rispetto agli altri. Faccia però chiarire gentilmente, perché lei ha la possibilità di dirle le sue. No, dica. Allora, io penso che ci sia la quasi una maggioranza dei siciliani, sicuramente la maggioranza che si alza la mattina per andare a lavorare. Ma questo certo. Sì, però non è che tutti questi ma che si alzano la mattina sono parassitari. Poi ce ne sarà una percentuale, potrà essere più alta rispetto alla Lombardia, più alta rispetto ad altre regioni, ma è uguale in tanti altri posti. Trasversare questo problema non è solo della Sicilia. Io non ho detto infatti che è solamente la Sicilia. Io era una semplice domanda a Battiato. Per cercare di fare dire a Battiato una cosa che magari pensa e che non voleva dire, cioè dire che bisogna cambiare rispetto alle abitudini dei siciliani come di altri, come dei calabresi, come dei sardi, come dei campani, eccetera, che è quello di aspettarsi qualcosa dall'alto, di aspettarsi qualcosa in particolare dallo Stato, in questo caso dalla Regione o addirittura da Roma. Aspettare e non fare. Questa non mi può dire che non sia stata per anni, ma che è una caratteristica preponderante nel sud Italia, o no? Adesso si inventano le soluzioni, Cruciani, si inventano. Vabbè, ma lasci perdere il merito, adesso stiamo parlando di un'altra cosa, di quello che io chiedevo a Battiato, non stiamo parlando del merito della questione. Ma io entro nel merito perché lei, parlando genericamente dei siciliani... Non ho offeso nessuno, guardi, ho abitato in Sicilia tanti anni, quando ero più piccolo, per motivi familiari, per cui non sono molto legato. Dopodiché la cosa non mi impedisce di guardare... alcune storture che ci sono in generale nel sud Italia e anche in Sicilia. Vogliamo vivere noi. La dignità è un diritto che ci fa sentire più uniti che mai. Beh, signori miei, cari ascoltatori della Zanzara, alle 20:35 voglio dirvi una cosa molto semplice. Vi dico questo, è mai possibile che in questo maledetto paese, caro Parenzo, è mai possibile che oggi, il 7 di dicembre, ancora non si sa quando si vota nel Lazio, in Lombardia, in Molise, le politiche? Ma è o no una vergogna? Almeno la data delle elezioni, non si riesce nemmeno a sapere la data delle elezioni. Ricorsi, tribunali... Cioè negli altri paesi almeno ci sono delle certezze assolute, si va a votare questo giorno dopo tot anni, da noi nemmeno questo, ancora non si mettono d'accordo su nulla, interventi dei giudici, il TAR, il Consiglio di Stato, ricorsi, contro ricorsi, conviene questo, conviene quest'altro, conviene fare questa cosa e i tatticismi e votiamo il 10 marzo, l'election day e i soldi che così ti voglio. Una cosa pazzesca, vergogna. Lucido ti voglio, così lucido ti voglio. E le ipocrisie poi in Parlamento oggi, tutti quanti a dire l'irresponsabilità, ma se il PD è d'accordo con il PDL per andare a votare il prima possibile per capitalizzare il vantaggio delle primarie, se sono d'accordo per mantenere il Porcellum alla fine. Ma di che parliamo? Sono d'accordo, non lo dicono, ma sono contentissimi e prendono una valanga di deputati. Poi sì, è vero, c'è la spada di Damocle di Napolitano che vuole il cambiamento della legge elettorale, ma alla fine sono contenti perché prendono una valanga di deputati, ed è giusto così. Diciamo che sono tutti contro Napolitano, questo è certo. Vogliamo vivere. E risentiamolo, dai. Io ancora oggi ho scritto al presidente dell'Impigi che il fondo pensioni, i miei soldi, va bene, li posso avere fra 7 anni, e andate a fanculo tutti, questa è la verità. Ma Emilio, Emilio, scusa, no, ma no, che... No, vi avete rotto i coglioni, voi compreso. Ma noi no, ma chi... voi ha retto i coglioni. Ma chi ti ha scritto queste cose? L'Espresso? Mi dicono l'anticipazione dell'Espresso, ma vada a fanculo, l'Espresso è chi fa da capofila all'Espresso, che Berlusconi mi avrebbe dato 800.000 euro, sì, ma così quale cazzo di 400.000 euro. Vogliamo vivere noi. Io ancora oggi ho scritto al presidente dell'Impigi, sì, di liquidarmi il mio fondo pensioni. Quanti soldi devi avere dall'Impigi? Ma quelli che sono solo, porca la puttana, andate a fanculo. No, Emilio, scusa, ma perché sei arrabbiato con loro? Avete rotto i coglioni! Siete delle merde! Andate a cercare del mio privato! Ma noi abbiamo... Ma noi che c'entriamo? Ma che c'entriamo? Allora, con questo io ho fatto fare i conti di cosa prenderò a dicembre. Fra cazzo, fiala, tredicesimo e stipendio, 15.000 euro! Ho rubato! Ma che è successo? Ma perché scusa, sei andate a fanculo! Vogliamo vivere noi, la dignità è un diritto. Con quello che hai detto si arrabbieranno anche quelli dell'Espresso adesso, giustamente. Vabbè. Come si arrabbierà l'Espresso? E si arrabbieranno i colleghi, no, che hanno scritto lui, il pezzo. Ma è arrabbiato lui. Ma quelli che hanno scritto il pezzo si arrabbieranno, se hanno le cose documentate. Hanno pubblicato questa cosa. Sono dei mascalzoni che possono arrabbiare quanto vogliono. Se però è vero, poi dicono... Avrebbero scritto che Berlusconi ha dato 800.000 euro, ma quando mai? Fanno parte anche loro di quella banda che sta tentando in ogni modo di mettermi fuori gioco. Ciao. Ma questo è buffone. Vogliamo vivere. È bello è che dopo tutto lo sfogo di Emilio, eccetera, spunta fuori la vocina di Annarella. Sì, sì, sì, sì, che lemme, lemme. Ma questo è buffone. Pure. Ma cavoli vostri. Annarella, dai, su. E toccavo io. Vabbè, c'è poco da scherzare, però, qui siamo di fronte a una persona che ha perso la testa in quel momento, ha sbroccato. No, era disperato. Appena ha saputo di questa inchiesta, chiamiamola così, comunque, di questo articolo dell'Espresso, ha perso la testa, su, ha sbroccato, diciamola tutta, ha sbroccato. Beh, certo. Ma tu lo sapevi che esisteva un terzo Parodi? L'ho visto, sì, un terzo Parodi fa anche televisione, l'ho scoperto leggendo forse un articolo di proprio del grande Grasso. Non lo conoscevi, scusa? Come? Non lo conoscevi? Beh, dire che... No, ecco, devo ammettere, non lo conoscevo. Ammetti i tuoi Parodi deficit. Non lo conoscevo, ma terzo, poi magari è il primo. Cioè, conoscendo non lo le sorelle sarà un talento sicuro. Hai cominciato subito a lisciare il pelo. Roberto, buonasera. E io sono qua, il talento è qua in linea. Come andiamo? Oh. T'ha chiamato talento, capito? Il talento qua è qua che ascolta. Ti rendi conto o no? Ma hai sentito Fede? Non lo conosci tu Fede? L'ho sentito. Temevo che mi coinvolgeste lì in mezzo, ma per fortuna avete avuto il buon gusto di lasciarmi fuori dalla... Lasciarti fuori, che sei qui... Dallo sclero, qua è scattato uno sclero pazzesco. T'ho fatto ascoltare apposta. Scusa, ma tu lo conosci, no, Fede, attraverso la tua famiglia, televisione, cose, eccetera? L'hai conosciuto sicuramente? No, io non l'ho mai conosciuto. Mai conosciuto? No. Ma io in realtà non sono un animale televisivo, come dicevate. Io ho avuto un percorso completamente diverso, quindi... Ma chi è più brava in televisione? Tua sorella Cristina o tua sorella Benedetta? Sono due tipi diversi. Benedetta ti verrebbe voglia di mangiarla e di diventare subito sua amica, perché fa anche un programma che richiede questo tipo di approccio. Cristina, secondo me, è infallibile, professionale, vabbè, sono però, entrambi qualche, piacevoli da vedere. Qualche difetto ce l'avranno, adesso non fare la sviolinata con le due sorelle. Cioè, ma qual è? Guarda, Cristina è un po' argidina, mi sembra, no? Non è vero, perché voi non la conoscete. Allora, Cristina è in realtà passionalissima. Io mi ricordo delle serate passate con la chitarra a suonare, ma chi è più giovane? Riva al mare. Lei è una che si scatena, si scatena, si scatena. Ma tu sei più giovane di tutti. Una donna appassionale. Tu sei del 63, ma tu sei più giovane di tutti, no? Io sono più grande, sono un anno più di Cristina. Hai capito, Parenzo? Tu, quindi ci sei, tu numero uno, sì. Numero due Cristina, numero tre Benedetta. Dopo 9 anni è arrivata la Benedettina, sì. Però vabbè. Benedetta, diciamo che alla fine sembrava quella più, invece poi è diventata quella, no? Ha spaccato. Allora, come soldi ne ha guadagnati sicuramente più lei di tutti noi. Di tutti. Beh, io pure Cristina. Non avevate grande bisogno, diciamo la verità. Ma cosa ne sai? Siete messi bene. Abbiamo fatto i nostri lavori. Ma certo, per carità. Però, voglio dire, no. Ma perché devi fare sempre i conti in tasca? Io faccio sempre i conti in tasca. Che devo fare? Però per i coglioni e i fratelli parodi non si capisce perché non fatti i conti in tasca tua, no? No, ma qualcuno, ho capito, però. Ma allora, capito, qualcuno ti viene a dire, stai benino anche ma tu. Ma non ho detto niente, ho fatto una battutina. Sei un miliardario anche tu. Scusa, ma la famiglia Parodi, storicamente, chi ha votato? Cioè, Berlusconi l'avete mai votato? Perché avete lavorato? Sì, alla grande. Io l'ho votato per un bel po' di tempo, ma stavolta veramente l'ho votato. Cioè, io sono andato a votare per Renzi. Tu sei, vabbè, quello ormai tutti siete reclutati, eh? Siamo reclutati. Siete reclutati. C'è Cristina che Benedetta, tutte e due sono andate a votare per Renzi, mi sembra, no? Questo non era neanche in discussione. Io ci sono andato perché veramente credo che ci sia bisogno di qualcosa di nuovo e mi auguravo che potesse essere Renzi. Adesso che Renzi ha perso, però, per Bersani già avrei dei problemi. Lo vedi, tu sei uno di quelli che diciamo viene da un voto al centrodestra. Tu hai votato sempre Berlusconi, mi sembra di capire. Sì, no? Più o meno sì. Ha votato per Renzi. Adesso siamo nei casini. E adesso col cavolo che vuoi per Bersani? Hai ragione, esattamente. capito, Parenzo? Non credo di essere il solo. Tu cosa dici? No, ma guarda che un sacco di gente prima ha chiamato. Non è clamoroso, è una roba fatto lo stesso. Non è clamoroso, però insomma, vorrei vedere i numeri di questa bug, insomma, quante persone in realtà vengono dall'elettorato di centrodestra che adesso non votano per il Partito Democratico alle prossime elezioni. Ma infatti per me l'errore di Renzi è stato presentarsi allineato alle primarie. Se fosse doveva uscire da solo, uscire credo fuori. Che anche Giorgio ne abbiano anche forse discusso di sta cosa qui. Cioè Gori voleva il distacco. Ma non lo so, ma magari ne hanno anche discusso. Beh. E credo che comunque sarebbe stata forse una buona scelta, a giudicare da come è finita la cosa, voglio dire. Tu dici che Giorgio Gori voleva che lui si staccasse dal PD. Non te lo so dire, perché ovviamente Giorgio è ermetico. Non è che venga a consultarsi con me nelle sue discussioni, io così, vedendo l'evidenza, credo che in effetti se fosse andato da solo avrebbe avuto sicuramente spazio, perché nelle alternative alla destra e alla sinistra, perché io Renzi per me è un po' alternativo alla vera sinistra. È alternativo. Cioè, personaggi credibili non ce ne sono molti. Allora, Roberto Parodi fa una trasmissione che si chiama Riders Café su Italia 2. Sì. E mi mormono, tu sei molto amico del figlio di Confalonieri, diciamola tutta. Ma no, non sono ma molto diciamola, amico. Diciamola, dai. No, allora, una spintarella c'è stata, dai. Lui è stato dai. Quello che ha seguito i miei libri, perché io nasco come scrittore. Sì. Scrittore, ho scritto 4-5 libri, tutti di viaggio e di moto, e prima di scrivere i quali ho fatto viaggi lunghi così. E Yves era un mio lettore, e quindi la nostra amicizia è nata Yves così. Confalonieri, come... signor... sì. Yves Confalonieri, vabbè, diciamo la verità, un po' di raccomandazioni ce l'hai avute, dai, su, per fare ma questa quali, trasmissione. Quali raccomandazioni? Per fare questa trasmissione su Mediaset, dai, vabbè, ma non c'è ma niente no, di male. Ma ti chiami Parodi, sei amico di Yves Confalonieri. Ma non è vero, Yves Confalonieri è venuta fuori, lui, appassionato di libri, proprio perché io avevo un percorso di motociclista, e ti assicuro che partire in moto e andare a Cape Town, oppure andare a Nuova Delhi, oppure andare a Dakar, per dire tre cose che ho fatto io, non è facile. Con le raccomandazioni. No, che c'entra quello? A questo punto Yves ha detto, ma scusa, Giorgia, e anch'io sono appassionato di moto, perché non ci inventiamo una cosa, perché non mi proponi un format? Questo è stato il mio gancio con la televisione, e ti posso anche dire, l'anima del gancio, portate ancora le mie due sorelline a Mediaset, magari mi sarei fatto pure aiutare, però queste non c'erano più, per cui è stato proprio una cosa così, ma non ho capito, ma cosa basata fai? Sulle mie capacità, ecco. Non ho capito una cosa io, sì, il figlio di, e tanto colgo l'occasione per salutare Fedele Confalonieri, ciao Fedele, grazie. Ma che c'entra adesso? No, vabbè, così, che c'entra Fedele Confalonieri? No, è stato nostro ospite più volte. Il figlio di Fedele Confalonieri, Yves si chiama, Yves Saint, come Yves Saint Laurent, Yves. Ah, Yves, il figlio Yves. Yves. Che fa Yves a Mediaset? No, non fa niente a Mediaset. È il figlio del presidente di Mediaset, però. Ma cosa dite? No. Che lavora a Mediaset? No. No, certo, non credo. Certo. Ah, lavora pure lui, non lo sapevo. Che fa a Mediaset? Il capo di Mediaset Interactive, la parte del web. Hai capito, Parenzo? Ah, ecco, no, vabbè. Non siete preparati. Ma non ci sarebbe un tirato fuori questa cosina che io avrei avuto il gancio con Yves, ma non sapevate poi. Vabbè, ma è lo stesso. Che ruolo, il ruolo non è importante. Insomma, sempre Yves Confalonieri è, cioè che faccia quello o quell'altro, che importanza ha. Ma sai, per quanto mi riguarda, lui. Ma noi giochiamo naturalmente. Fondamentale è stato che lui è un appassionato di moto, un grande motociclista. Abbiamo girato in moto insieme. Per un bel po' di tempo e insomma dalle gite in moto è nata questa cosa. Certo, dalle gite in moto con Yves Confalonieri al programma. Tutto al programma. Il programma doveva essere un programma che doveva andare sul web, perché appunto Yves è il responsabile della parte web. Sì. Poi nella creazione, nella gestazione di questo programma, che è stato un po' un investimento su me stesso, insomma, non è una roba, una roba fatta molto a budget, ha suscitato l'interesse delle reti Italia 1 e Italia 2, certo. E abbiamo fatto questa prova su Italia 2. Quindi è stata proprio una cosa così, molto naturale, molto fatta, ma è una cosina. Però credo che possa avere un suo pubblico, perché è un programma particolare, nuovo. Poi le moto. Andiamo a sentire qualcuno, va. Limpido, ma come si fa a chiamarsi Limpido? Limpido da Siracusa. Vabbè, comunque, Limpido. Limpido? Sì. Ma lei si chiama Limpido? Limpido, perché non ma come piace, si fa Limpido? A chiamare? No, ma non è che non e lei come si fa a chiamare Bisciane? No, ma questo è cruciale, il cognome, però, scusi, abbiamo pazienza. È Limpido che ti sembrava. Limpido, che è il cognome? Sì, sì. Ma allora perché si è fatto chiamare Limpido, scusi? Ma perché lei c'è mio? Vedo qua la maggior parte delle persone. Ma di nome, lei come fa di nome? Maurizio. Ah, Maurizio, vabbè, Maurizio da Siracusa. Limpido è bello, però. Maurizio Limpido. Maurizio è più bello. Vabbè, perché Limpido il cognome non è bello. Che vuole? No, no, è il cognome, sì. Il nome era un po' strano, comunque, vabbè. Sì, certo, quello sì. È che mi vuoi sentire dire Limpido, capito? Ah, le piace farsi Limpido da Siracusa. Sì, sì, Limpido da Siracusa. Vabbè, allora che vuole? Limpido, ci dica. Dica, no, ho visto oggi la fotografia di Cattini che con Bersani. Ma c'è questa alleanza. Sì. Sì, e non si vergogna, Bersani. Ma perché si dovrebbe vergognare? A parte che l'alleanza non è sicura ancora. Ma oggi io l'ho conosciuto al mare, perché quest'anno è stato a Siracusa, il signor Bersani. Ma chi ha conosciuto al mare? Bersani? L'ho conosciuto così, per dire. L'ha visto da lontano. No, non bisogna andare, diceva un ombrellone vicino a me. Vabbè, non allora. L'ombrellone glielo metto una parte. Allora? E dico, come si fa a mettersi con come a Casini, va? Vabbè, Parenzo, ci pensi tu o no? Parenzo, ci pensi tu? Stanno già arrivando sul posto, guarda. Stanno già arrivando, non c'è neanche bisogno di sentire. Il signor Maurizio Limpido sostiene che Bersani è pazzo perché si allea con Casini. Vabbè, è Limpido, cosa vuole che le dica? Insomma, ma è fuori orario rispetto a. Mi ha abituato a chiamarla Limpido, ma io non la voglio chiamare Limpido. Maurizio. Vabbè, Maurizio, ma perché fa sempre i soliti discorsi, le solite battute fa? Ma perché? Come mai è così? Ma chi? No, come si chiama la Terenzio? Parenzo. Parenzo, caro, Parenzo lo diceva Cipolli. Signor Parenzo, signor Parenzio. Parenzo. Va bene, grazie Maurizio, buona serata. Buon weekend. Allora, Roberto Parodi, fratello di Cristina e Benedetta Parodi, però in realtà è il più grande, è il più grande. E forse è il più saggio a questo punto. Ma è più saggio, non perché è più saggio? Non che c'entra? La saggezza non... Magari. No, no, che c'entra? Io vorrei capire, quando erano ragazzine, chi è che rimorchiava di più? La signora Cristina o la signora Benedetta? Cioè, chi era che attirava di più gli uomini? Gli uomini? Sì. Cristina. Cristina? Cristina era spettacolare. Cristina era una roba pazzesca. Benedetta era un po' sfigatella, no? Benedetta ha sempre avuto i suoi morosi, come tutti, così. Però Cristina era una che la vedevi, ti lasciava secco. Era proprio una, come adesso, una bella donna. al tempo del liceo, insomma, facevano follie gli uomini, faceva, sì, sì, sì, sì, sì, cioè, sì, qual è la follia che tu ricordi più suonavano la canzotto, suonavano, si mettevano sotto casa a cantare il più grande, no, spettacolo, ma no, mi ricordo, no, ma in realtà la vera follia dei morosi di Cristina era subire mia mamma, era quella la vera follia, quindi i veri eroi erano questi stoici che venivano poi diciamo accolti in casa dopo anni di perorazioni, cioè, e poi venivano massacrati dalla Lauretta e così, per cui dei veri stoici. Allora, io voglio chiedere ancora un'altra cosa. In un'intervista che ho letto, tu hai dichiarato che se dovessi rinascere vorresti essere Fabio Caressa. Perché? Sicuramente. Ma perché? Ma no, allora, innanzitutto Fabio è... Che è il marito di Benedetta, ricordiamo. Che è il Benedetta, sì. Sì. È un personaggio estremamente simpatico, una persona di grande, molto brillante. Poi io sono un po' balbuziente e l'idea di parlare come Fabio Caressa è sempre stato il mio sogno. Cioè, vorresti, no? Parlare come Fabio Caressa? Vorrei parlare come Fabio Caressa. E poi non solo il fatto che abbia sposato Benedetta, che è una ragazza adorabile, e viene trattato benissimo in casa, cosa che invece a me non, cioè, sempre coccolato, capita, è super coccolato. È coccolato. Per cui io, se rinasco, voglio essere Fabio Caressa, senza dubbio. Cioè, fa una vita proprio da pasciate. Ma sì, vabbè, peraltro è meritata, voglio dire, c'è, cioè, un menage molto, molto, vabbè, affettuoso. Insomma, però fammi una bella dichiarazione. Roberto Parodi, un bene che Berlusconi sia tornato a ricandidarsi. Voterò di nuovo per Berlusconi, su. Io dovrei dirlo? Ma no, esiste. No, non è un bene affatto. Non è un bene affatto. E non lo voterò. Mamma mia, che tradimento su tutti i fronti. Le tue sorelle se ne sono andate da Mediaset. Devo trovare qualche alternativa. Può darsi magari che lo rivoti, però il tema è che abbiamo troppo voglia vecchio, di su qualcosa, dillo, di nuovo. Abbiamo voglia di qualcosa, cioè, di nuovo tutti. Potrebbe venire dalla destra, ecco. Ma tu la politica la faresti, no? No. Mai. Ciao, ti saluto, buona serata. Ciao. Parenzo, che fai? È proprio svolgere le trasmissioni in questo modo. Siete proprio degli incoscienti. I giornalisti come voi rovinano l'Italia. Mi fate schifo. Ve lo dico io. Mi sono sfogato benissimo. Andate a fanculo. A lunedì. Alla prossima. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8. Ragione. Lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Sono cavoli vostri. Radio 24. La passione si sente.